yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Siamo stati alla polizia. Polizia? Un uomo era stato ucciso. Tutto qui. E la fate tanto lunga. Sali lassù, in cima a questa porta. Non vedrai che cadaveri per terra e mai nessuno li raccoglie. Ho incontrato quel samurai. Tornavo a piedi, solo, al mio convento fuori città. Proprio lui, il famoso brigante Tajomaru che terrorizzava questa regione. Sì, lo conosco. Anche un'altra volta stavo per arrestarlo. Era vestito tale quale come oggi e portava al fianco la stessa spada. Ma allora non è vero che hai trovato il cadavere come avevi detto? Non volevo essere immischiato anch'io, l'hai capito? Per introdurre il tema di questa mattina vi racconto una storia che mi ha sempre colpito, un vecchio film degli anni 50 del sommo regista giapponese Kurosawa, Rashomon. È una storia singolare, sembra quasi un fatto da paese. Si incontrano nel Giappone medievale, a Kyoto, un boscaiolo, un monaco e un passante, e parlano di un omicidio che è avvenuto proprio in quel posto. Un samurai è stato aggredito da dei briganti che lo hanno ucciso e hanno anche stuprato sua moglie. Nel racconto di questi personaggi viene fuori la relatività della storia. Ognuno ha una versione diversa e ogni volta la storia sembra plausibile, ogni volta la storia sembra perfettamente combaciare con una realtà razionale. Ma in realtà arriveranno poi a evocare anche lo spirito delle vittime, via dicendo, che daranno ancora una versione diversa. E questa sembra una grande metafora. A quel tempo bisognava far capire e far conoscere il cinema del Giappone. Il Giappone era uscito da una grande ferita, un grande trauma che era la sconfitta e che significava il passaggio nel mondo civilizzato per il Giappone. Da una parte c'erano i mostri di Godzilla sorti dall'incubo della paura atomica, post-atomica, dalle mutazioni, dai cambiamenti del medioevo giapponese che ancora non collimava con la civilizzazione dell'Occidente. D'altra parte c'era questo senso profondo, questa lezione sulla relatività della storia. Oggi troviamo in un momento e in un'epoca in cui la storia sembra avere tutti gli strumenti per essere narrata con certezza. Tutti arrivano ovunque, noi abbiamo dei terminali individuali di certezza, abbiamo addirittura la sensazione che ognuno di noi, attraverso il proprio personal computer collegato ad internet, ha tutti gli strumenti di analisi, di mediazione dei fatti storici. Eppure grandi fatti storici mantengono ancora degli aloni di impercettibile senso di epica, ci fa quasi assimilare a quello che era la storia per gli antichi, qualcosa raccontato nel rapporto difficile e insondabile tra uomini. Dei. Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. Tanti giovani. Una telecronaca del 1989, la caduta del muro di Berlino. Cosa oggi resta di questo evento? Cosa rimane nell'emotività di questo evento? Quale traccia indissolubile, quale solco ha tracciato le nostre coscienze questo evento? E soprattutto fa parte di quegli eventi che sembrano quasi accadere una sorta di miracolistico intervento di qualcosa che non ha più a che fare con la volontà degli dèi, con il mondo dell'ipersensibile, ma con una sorta di laica maniera di percepire il miracolo. Invece nel mondo antico la storia si raccontava in questa maniera. Ciclope! Se qualcuno fra i mortali ti domandasse quale nemico ti abbia accecato, rispondigli che l'astuzia di Ulisse ha vinto la tua forza! Io potessi distrapperei anche il cuore. Ascolta, Poseidone, signore dell'abisso. Se è vero che io sono tuo figlio, concedimi che Ulisse non torni mai più in patria. Professor Mario Perniola, buongiorno. Buongiorno. Mario Perniola, filosofo, docente di estetica all'Università di Tor Vergata a Roma, ha scritto Miracoli e traumi della comunicazione, Einaudi, che è un libro che appunto vorrebbe farci capire come anche il moderno percepire della storia in fondo è sottoposto al senso del miracolo che, come dice lei, assieme al senso del trauma, non richiede una spiegazione razionale. Qual è la differenza di questi due episodi che abbiamo citati nella percezione collettiva, secondo lei? Beh, la storia ha preteso, soprattutto nell'Ottocento, di essere una scienza, e poi anche nel corso del Novecento. Direi che l'esperienza degli ultimi 40 anni mostra, semmai ci riporta, come lei ha detto giustamente, ad una dimensione più problematica, più enigmatica. La storia non è semplicemente una scienza, ma è qualcosa a metà tra scienza e arte, è un racconto, e quindi naturalmente, come lei ha detto giustamente, dal modo in cui è raccontata, le problematiche assumono dei sensi completamente differenti. Però nella contemporaneità mi sembra di intravedere un po' nella traccia sottile del suo libro insorta una nuova profonda superstizione o mitologia, che è quella del mondo dei media. Lei cita quattro episodi, faccio un esempio, quattro fatti che hanno tutte le caratteristiche dell'evento miracoloso del Deus Ex Machina che cambia improvvisamente la realtà, che poi non è che l'abbiano cambiata in maniera così indissolubile: il maggio francese del 68, la rivoluzione iraniana del febbraio 79, appunto la caduta del muro di Berlino, novembre 89, e alfine l'attentato alle Torri Gemelle a New York del settembre 2000. Ecco, perché questi quattro episodi sono episodi chiave per descrivere la sua lettura della contemporaneità, del mondo dei media che racconta la storia? Direi che possono essere definiti come eventi matrice, nel senso che hanno avuto un'influenza molto maggiore da un punto di vista più dal punto di vista immaginario che dal punto di vista reale. Hanno avuto un'enorme risonanza mediatica, e tuttavia rimangono in se stessi come qualcosa di opaco, di enigmatico, di oscuro. Perché sono avvenuti quali sono state le conseguenze? Per esempio, il maggio francese, che ha avuto è stato il primo, direi, mi sembra, di questo tipo di evento che è insieme miracolo e trauma. Poi in Francia non è capitato nulla, nel senso, dopo un mese tutti sono tornati a lavorare, però negli altri, da un punto di vista globale, ha avuto delle conseguenze anche molto molto negative. Si pensi appunto alla repressione messicana in Brasile, in Messico, eccetera. E poi il caso particolare che in fondo ha continuato poi ad avere un impatto sostanzialmente poi in tre paesi, che non a caso sono i tre paesi che hanno perso la seconda guerra mondiale: in Italia, in Germania, in Giappone e soprattutto in Italia. E questo è ecco, prima che andiamo avanti ad analizzare gli altri episodi, mi sembra di capire che lei attribuisca al mondo dei media, quella che oggi in fondo è il più grande potente strumento di certificazione della realtà, un potere simile a quello che nel mondo antico, nel mondo classico, anche in epoca premoderna veniva dato, le grandi circostanze che determinavano la storia, la volontà, il senso di necessità, Dio lo vuole e via dicendo. Quindi i media sono sostituiti a quello che una volta era la religione o il senso della metafisica nel determinare la storia. Sì, questa è un'osservazione molto interessante, nel senso che proprio il fondatore della storia come scienza, che era Leopold von Ranke, riteneva che esistesse poi una parte del tutto incomprensibile che lui attribuiva alla volontà di Dio. C'è qualcosa in fondo non interamente spiegabile. Allora, questo risulta, a mio avviso, risulta più evidente soprattutto negli ultimi 40 anni, in cui siamo particolarmente sempre crediamo di sapere tutto, però ci sfugge molte volte il senso di quello che avviene. E nel caso di questi quattro eventi, sono quattro eventi che nessuno aveva che ben pochi avevano previsto, direi, che hanno poi avuto uno svolgimento differente da quello, assolutamente differente da quello che si prevedeva nel momento in cui avvenivano. Professor Franco Cardini, buongiorno. Buongiorno. Franco Cardini, storico, saggista, docente di storia medievale all'Università di Firenze. Vorrei anch'io coinvolgere lei su questo nostro singolare percorso. Esiste oggi una possibilità di attribuire al mondo dei media, alla lettura che ognuno pensa di poter fare autonomamente? Oggi gran parte delle persone sono convinte di sapere le verità nascoste, le verità occulte, quelle che nessuno vuol dire, quello che i grandi centri di potere nascondono, come se ognuno di noi avesse in mano una sorta di formula di religione misteriosofica che sa esattamente come stanno le cose rispetto ai culti popolari, ai culti accreditati. Lei la vede questa similitudine fra passato e contemporaneità? Beh, sì, anzitutto non esageriamo, non faccio lo storico, faccio il professore di storia, sono due cose un po' diverse. In storia Forranche faceva lo storico. In ogni modo ci ho premesso, certo le analogie si possono sempre vedere, però attenzione, dicevo una cosa fra le altre cose belle e giuste che ha detto Pernola, ce n'è una in particolare che bisognerebbe ricordarsi: la storia non è una scienza esatta. Oggi sembra perfino alcuni matematici puri sospettano che non esista scienza esatta e che nemmeno la matematica pura possa esserlo, che è tutto dire. E la storia poi, fra l'altro, nasce proprio come scienza pratica. I romani, dicevo, avevano storia, opus maxima, la forum, quindi insomma si fa storia perché bisogna convincere, perché bisogna dare dei modelli, quindi la storia è una scienza civica, attenzione, con tutti i pregi, i difetti, i vantaggi e i pericoli delle scienze civiche, perché tutto questo vuol dire che la storia si presta quasi per sua natura, ecco, più un fatto fisiologico che patologico, alle manipolazioni. La storia, quando si fa storia, si scoprono i fatti del passato, ma nello stesso tempo proprio si inventano. Il concetto latino di inventio al riguardo è poi passato anche nella teologia cristiana, si pensa all'inventio delle reliquie, è divertentissimo in fondo, perché appunto non si capisce mai quando finisce l'inventio nel senso latino, il ritrovamento, e quando comincia l'invenzione nel senso nostro, ma bisogna stare a questo tipo di gioco. Quindi, beh, oggi diciamo che la contemporaneità, avendo toccato il punto massimo nella plastificazione di Padre Pio, ricoperto da uno strato di silicone, ha risolto anche il problema dell'invenzione delle reliquie. Sì, ne ha risolti molti di problemi, ma tutte queste risoluzioni, non a caso il silicone di Padre Pio, si accompagnano sempre delle manipolazioni profonde, c'è un uso della storia. Noi in generale buttiamo sempre le croci addosso ai regimi totalitari, anche perché i regimi totalitari hanno questo bellissimo pregio, che sono terminati, almeno quelli classici. Il nazionalsocialismo è stato sconfitto da una guerra sanguinosissima, e il comunismo in realtà tutto sommato è finito col suo grande demiurgo, con il maresciallo Stalin. Il resto poi è stato lenta agonia di un sistema senescente, e quindi c'è il vantaggio che di Hitler e Stalin si può dire tutto il male che si vuole. Io sono sempre molto colpito dal fatto del coraggio di una serie di intellettuali e di miei colleghi che sono durissimi, giustamente, con i dittatori, con i tiranni, come lo sono con i disonesti, eccetera eccetera, con una piccola nuance: lo sono sempre con persone morte e sepolte, che per quanto fossero terribili in passato, adesso non si possono più tecnicamente difendere, sono proprio tecnicamente parlando. Però lei mi insegna, professore, che poi il tempo che passa riabilita ogni tiranno. Si è riabilitato Nerone, si è riabilitato Rasputin, si è riabilitato chiunque. Guardi, la storia, a parte il fatto che nei casi specifici, nei due casi, grandi casi specifici che parliamo, di cui parliamo, la riabilitazione diventa difficile, se non impossibile, almeno attualmente, e per ragioni che io esiterei a definire tutte decenti. Ecco, c'è anche la volontà, molto spesso, quando si parla dei grandi tiranni del passato, di sbattere il mostro in prima pagina, per non parlare di altri tiranni o tirannelli del presente. Oggi abbiamo a disposizione, come dice il professor Pernola, un'infinità di possibilità di leggere la storia. Questo non fa che esista una sacralità a dire questa è la storia, esistono tante storie. Vorrei introdurre però a questo punto un altro elemento che mi sembra fondamentale, che è quello di Stefano Morigi, costante contributo alle nostre missioni, filosofo della scienza. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Riportiamo un attimo il tema che il professor Cardini ha centrato su una sua su una vicenda che aveva particolarmente a cuore, in realtà in profili più generali, sulla ricostruzione emotiva della storia e sul miracolo, che è razionale altrettanto, come dice il professor Perniola, che la tragedia, che è il trauma collettivo. Sì, Cardini e Perniola in modo diverso tra loro mettevano a fuoco un punto centrale circa il problema della storia come scrittura e, se vuoi ancora meglio, come riscrittura degli eventi, che un biologo, uno scienziato, un filosofo della scienza potrebbe dire con altre parole, ma in qualche senso corroborando quanto detto. La storia e quindi la cultura evolve in un certo modo. La cultura e la storia, le nostre idee sono un meccanismo di adattamento all'ambiente e le idee evolvono in una maniera particolare, tendono ad evolvere creando conformismo, specialmente all'interno dei gruppi. C'è un bisogno di coesione che si va coagulando attorno a narrazioni comuni che rinforzano i gruppi. Pensa quanto è vero, Stefano. Il sistema di narrazione che sembra assolutamente più orizzontale, più popolare, che quello della rete, dei blog, delle comunità in rete, in realtà sono degli acceleratori di conformismo. Sono degli acceleratori di conformismo perché creano dei gruppi che per banalmente relazionarsi hanno bisogno di elementi di condivisione, di narrazioni comuni e quindi non evitano in realtà il rischio che c'è la storia che si scrive quella con la S maiuscola e che rischia di cadere in quei bisogni di conferme che qualsiasi miracolo, per dirla con la definizione che Perniola mutua da Bataille, mette in discussione e sospende. E quindi è quella novità che sconvolge nel bene e nel male e che è guardata con terrore o entusiasmo, ma comunque al di là di quella quotidianità che nelle narrazioni comuni trova giustificazione e conferma. Quindi, professor Perniola, come dice Morigi, l'apparente pluralità, democrazia del sistema dei media elettronici crea nuovi fondamentalismi. Io sono perfettamente d'accordo in questa interpretazione che dà Morigi di Internet, nel senso che primo luogo, per quanto riguarda i blogs, il 90% dei blog non hanno nessun commento. Poi, naturalmente, si tende sostanzialmente a riprendere, sono un luogo di conformismo in realtà, e sotto l'aspetto di un dialogo, di una grande creatività culturale, nascondono esattamente il contrario. Ma soprattutto nel sistema italiano si creano poi delle leadership basate semplicemente sui contatti, sui consensi. Questo peraltro è un aspetto interessante di Internet, perché Internet è qualcosa di globale. In realtà soltanto il 30% di quello che passa in Internet è in inglese. E è avvenuto un fenomeno di provincializzazione, di strapaese, per cui molte di queste, le cosiddette comunità virtuali, in realtà sono comunità strapaesane, in cui praticamente non c'è tanto spazio per la critica e avviene esattamente quel fenomeno di dogmatismo generalizzato che giustamente Morigi metteva in evidenza. Quindi nel passaggio fra reale, inteso come con le categorie occidentali, come qualcosa che è concretamente accaduto, è immaginario, non è che sono fatti passi avanti con la moltiplicazione dei sistemi di diffusione delle notizie del sapere? Beh, direi che forse qualcosa di, per quanto riguarda i rapporti tra reale e immaginario, qualcosa di importante è avvenuto negli ultimi 40 anni, è avvenuto a partire appunto dagli anni 60, quando gli strumenti di comunicazione di massa hanno avuto questo così grande sviluppo. Io l'articolo, un po' il mio libro all'incirca su alcune nozioni filosofiche, dando una specie di interpretazione filosofica di questi ultimi 40 anni, che sono appunto quelle dell'epoca della contestazione, gli anni 60-70, l'epoca della deregolamentazione, gli anni 80, l'epoca della provocazione degli anni 90 e l'epoca della valutazione a partire dal 2001. Teniamo presente appunto che il fenomeno, un fenomeno molto preoccupante che mi sembra costantemente collegato con internet, è il diffondersi di una valutazione. Noi siamo continuamente valutati sulla base di criteri che non sono meramente quantitativi, ma sono sempre molto, molto discutibili. Melog 2.0. La mattina dell'11 settembre 2001, 19 terroristi armati di tagliacarte dirottano 4 eliminano gli equipaggi, si impadroniscono dei comandi, fanno perdere le... Riescono così a portare 2 degli aerei a schiantarsi contro le Torri Gemelle di New York, il terzo contro il Pentagono a Washington. Le Torri Gemelle in seguito crollano a causa degli impatti e degli incendi. I dirottatori risultano essere 15 sauditi e 4 egiziani, di cui 2 giorni dopo. Questa è in sintesi la versione ufficiale dei fatti, fornita al mondo dall'amministrazione americana tramite i maggiori media a diffusione globale. Ma dall'identità stessa dei terroristi, alla scomparsa totale di 2 dei 4 aerei, dall'inspiegabile stallo della difesa più impenetrabile del mondo, alle cause stesse del crollo delle 3 torri, questa versione ufficiale presenta moltissimi punti oscuri che nessuno finora ha mai saputo chiarire. Ritorniamo a parlare di realtà storica e di storicizzazione attraverso i mezzi di comunicazione, di informazione, di diffusione del sapere, anche quelli elettronici, anche quelli individuali, anche i media sociali come oggi vengono chiamati. Lo facciamo parlando del libro del professor Mario Perniola, Miracoli e traumi della comunicazione, editore Adelphi. Professor Perniola, l'11 settembre sembrava l'epica contemporanea vissuta da tutti noi come il momento di cruciale cambiamento del rapporto fra Oriente e Occidente. Sì, ce lo commemoriamo ogni anno, lo ricordiamo sempre con meno pathos, però è pure un evento che è così pieno di dubbi, è così frastagliato, è così intersecato da mille sottospiegazioni di cui la rete è piena, che ci fa ancora una volta rimeditare sul senso di certezza rispetto al racconto. Direi, allora vorrei sottolineare forse un aspetto che indubbiamente è stato un evento comunicativo per eccellenza, e come dire, la genialità, per così dire, tra virgolette, di questo è dovuto a Osama Bin Laden, che ha ragionato alla maniera occidentale, non ha ragionato come al-Zawahiri e come altro come personaggio vecchi, ammantato da grande certo, mistero. Perché l'altro giorno ho letto l'ultimo messaggio di Bin Laden in internet e erano 4 righe di mail. Certo, ma il fondamentalismo islamico mirava, a partire dalla creazione dei Fratelli Musulmani negli anni 20, al colpo di Stato. E ancora il colpo di Stato è stato in Egitto, il tentativo di colpo di Stato fallito è stato nell'81 con l'assassinio di Sadat. Però questo non è mai riuscito. Mentre Bin Laden, ad opera che ha una mentalità occidentale, quindi non ragiona sulla base dei colpi di Stato, fa il grande show televisivo. È riuscito nel suo, in qualche modo, in questo intento incredibile. In fondo comincia 19 persone a uccidersi insieme, rimane qualcosa di inspiegabile. Dal lei si ricorderà i cascami mediatici immediati a ridosso del fatto dell'11 settembre, l'antrace che doveva trapelare ovunque, gli attentati che poi ci sono stati, ma non c'è stato questo attacco sistematico con armi segrete e di sterminio di massa che tutti ci saremmo aspettati. Sì, fortunatamente sì. Assolutamente, certo, fortunatamente. Direi, però ci sono stati, teniamo presente che anche l'11 settembre c'è sempre qualcosa di molto simbolico. L'11 settembre, perché l'11 settembre? Perché ricorda, c'è questa data dell'11, l'11 febbraio è la proclamazione della Repubblica Islamica in Iran nel 79, e poi di 11 ce ne sono stati altri, c'è stato l'11 marzo in Spagna del 2000, di nuovo l'attentato alla stazione di Atocha, e poi ancora l'11 luglio a Londra, l'attentato alla metropolitana di Londra. C'è sempre questo aspetto, direi, simbolico, che ha un immaginativo, simbolico, comunicativo, che ha un grande rilievo. Ecco, oggi il raccontare la storia a uno strumento che apparentemente rivela certezza, che è il filmato, il documento filmato, la clip che viaggia in internet, ma che a sua volta è sempre messa in discussione da nuove scoperte, nuovi filmati, nuove letture di questo filmato. Noi spesso abbiamo chiamato un esperto di questo, che è Cristian Uva. Cristian Uva, buongiorno. Buongiorno. Che è ricercatore docente di cinema digitale all'Università di Roma 3, ha scritto Il terrore corre sul video, che è l'estetica della violenza, le BR Al-Qaeda, e ultimamente autore di Impronte digitali per l'editore Bulzoni. Cristian, tu che fai l'analisi di quelli che sono gli strumenti attraverso cui la contemporaneità racconta la sua storia, e cosa dire a proposito della effettiva certezza di prova storica di questi strumenti? Beh, il discorso naturalmente è complesso e si riallaccia a tutto quanto detto sin qui, quindi a questa dialettica, no? Tra, come dire, l'immaginario, e poi potremmo allora parlare di virtualità, se vogliamo, simulacro, eccetera, e ciò che invece appunto è reale, no? Il referente bruto. Io credo innanzitutto che i media digitali abbiano eventualmente amplificato alcune funzionalità che tuttavia erano già assolutamente innestate nei media precedenti, e quindi già nell'immagine, se vogliamo entrare nel campo proprio delle immagini, nell'immagine fotografica, nell'immagine, no, quella che si scattava già nell'Ottocento e poi che poi è diventata cinema. Credo semplicemente che, non tanto semplicemente, che però tutto questo appunto sia stato eventualmente potenziato da un'immagine che comunque di per sé è una configurazione dialettica fortissima. Per questo io ho parlato di impronte digitali, giocando anche un po' con i termini, cioè un'immagine che continua a essere profondamente traccia e impronta del reale, ma che al tempo stesso ne è evidentemente una elaborazione, no? Un'elaborazione informatica di per sé, nel momento stesso in cui la vediamo uscire, no? Da una telecamera o proiettata o su uno schermo. Allora, in tutto questo credo che torni fondamentale quanto detto proprio adesso dal professor Perniola, per esempio l'uso che ne ha fatto Al-Qaeda, l'uso che ne ha fatto Bin Laden, che effettivamente all'occidentale ha colto perfettamente questa ambivalenza, quindi da un lato i suoi video, no, carichi di simbolismi all'ennesima potenza, dal Kalashnikov posto da una parte piuttosto che dall'altra, l'orologio al polso, eccetera, eccetera, fino però al fatto che quelle immagini, soprattutto nella derivazione quella più brutale, no, delle decapitazioni di Al-Zarqawi, hanno una forte connotazione, come dire, di traccia, una forte connotazione di un qualcosa che sembra essere stato registrato lì in maniera anche molto sporca, in maniera molto banale, se vogliamo, dal punto di vista, no? E diventa artificio anche il presentare un video fatto con mezzi rudimentali. Quelle decapitazioni, grazie a Dio non si vedono più, avevano in sé l'aspetto tragico di un rituale arcaico a cui l'uomo occidentale non era più abituato, anche se di teste l'abbiamo tagliate fino a un paio di secoli fa anche noi, anche qui oltre Tevere ci sono stati depezzamenti non indifferenti, però che passano attraverso una tecnica alla portata di tutti, attraverso il personal computer con cui i nostri figli si guardano i videoclip dei concerti. Però volevo far intervenire Stefano Moriggi, filosofo della scienza. Cristian Uva ha detto una cosa fondamentale, che la traccia digitale diventa la traccia della certezza e soprattutto diventa un grande e meraviglioso amplificatore di funzionalità. Ma l'essere umano con le sue funzionalità organiche è adeguato a essere interfaccia di queste nuove tracce? Certamente, noi siamo sempre e continuamente, a proposito di scrittura della storia, soggetti storici anche in quanto riscritti dalla tecnologia con cui via via riscriviamo il passato e tentiamo di comprendere il presente. In quello che ho sentito poco fa emerge anche un altro nucleo concettuale del libro di Perniola, quello per cui la storia, compresa la storia del presente, per quanto paradossale possa sembrare parlare di storia del presente, fatta da immagini, e l'11 settembre questo è rappresenta in maniera palese, è una storia che sembra non consentire la riflessione e quindi sembra essere di ostacolo alla comprensione distaccata di quello che davvero sta succedendo. Qualche tempo dopo l'11 settembre, se non sbaglio, a Milano è successo un fatto analogo e molto più modesto, fortunatamente, cioè un aereo privato, credo piccolo, è andato a scagliarsi contro un grattacielo in prossimità della stazione centrale. Io ero su un tram che passava lì vicino ed ero, insieme ai miei pochi compagni di viaggio, l'unico, forse a Milano, in Italia probabilmente, chissà, forse nel mondo, a non sapere quello che era successo, finché non sono stato raggiunto telefonicamente da mia madre, che preoccupata dice: ma hai visto cosa è successo in stazione centrale? Come? Cosa è successo? Sono qui, ero dietro e non lo sapevo. Quindi il paradosso di chi c'era non sapeva quello che era successo a pochi metri dalla sua stessa esistenza. Però bada questo. Di questi cortocircuiti di comprensione e di informazione non è neanche esente quella storia ottocentesca a cui si faceva riferimento prima, che si vantava di essere una scienza perché basata sui fatti. Bisogna interrogarsi su quale scienza basava il suo modello. Era una scienza positivista che del fatto aveva fatto un'ideologia. La scienza ormai si scrive in maniera molto diversa da quella che Ranke teorizzava e praticava. È una scienza che è consapevole di dover essere, come la scienza, quella pura, diciamo, costantemente riscritta. È una scienza contingente che nella riscrittura ritrova il suo metodo, e questo è anche, toglie quelle rassicurazioni che le narrazioni antiche o moderne fatte dagli strumenti digitali offrono alle comunità virtuali e non, che dalla storia vogliono più rassicurazione che comprensione. Ecco, ci fermiamo un attimo, Stefano, per ridare la linea alle notizie dal traffico. Quindi il tema dell'ultima parte di questa trasmissione con i nostri ospiti è le riscritture della storia. Si è sempre detto che la storia la riscrivevano i vincitori, oggi sembra che la storia viene riscritta anche attraverso altri meccanismi. Melog 2.0. Signori, sono le 22:17 in Italia. Sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo. A voi Houston. Qui ci pare che manchino ancora 10 metri. No, Ruggero. Ecco, sto aspettando. No, Ruggero. Pronto? Sto aspettando. Se abbiamo ascoltato bene le comunicazioni fino adesso. Sto aspettando, no? Da 2,5 metri non si passa a 10. Fermate i motori, hanno detto da terra. Ha toccato in questo momento. In questo momento ha toccato. La mitica querelle fra Tito Stagno e Ruggero Orlando su quando fosse toccato, avesse toccato veramente il piede dell'astronauta americano il suolo lunare, sembrava fondamentale, epico quel momento. L'umanità avrebbe fatto un passo enorme rispetto al piccolo passo con l'astronauta. Quasi nulla rimane di quel passo, se non una grande commemorazione tristissima, con gli astronauti ormai ridotti a vecchietti, con il catetere e il treppiede. Ma anche su questa particolare lettura della storia, poi esistono le controstorie, le antistorie, è tutta una bufala. Ci sono le immagini che dimostrano che erano immagini false. Professor Perniola, la storia si racconta con le immagini. Sì, io vorrei raccontare, fare riferimento a una cosa curiosa. C'è uno storico, Marc Ferro, che ha con le stesse fotografie rappresentato la storia del XX secolo in un minuto, vista da destra o vista da sinistra. In un minuto le stesse immagini sono presentate in maniera differente e vengono fuori due film completamente diversi con le stesse immagini, e questo è particolarmente quindi conferma che nulla è più ambiguo che l'iperreale. Certo. E quindi avevano ragione gli antichi quando dicevano che la verità era sempre oltre la facciata e l'apparenza. Cristian Uva, nell'analisi dei sistemi, di creare immagini che debbano fortificare e corroborare alcune convinzioni o alcune letture della storia, sei d'accordo con questo concetto? Ma sì, sono senz'altro d'accordo. Io tendo sempre così a mettere l'accento sul fatto, ecco, che comunque queste famigerate nuove immagini, no? Le nuove immagini elettroniche, poi digitali. Ma io non direi, ecco, famigerate, sai, fanno parte del respiro della nostra epoca, fa parte di noi. Certo. Io le osservo sempre con interesse. Non vorrei tornare a un'epoca in cui gli uomini si basavano sulle viscere degli animali e le loro certezze. Ecco. No, ma figurati, io naturalmente le metto tra virgolette proprio in quanto ovviamente studioso di questi oggetti, che per me sono assolutamente affascinanti, ma che naturalmente devono essere presi come delle appunto armi, no? Anche molto pericolose. Però ecco, una cosa voglio ricordare, proprio recentemente recentemente mi è capitato tra le mani un volume degli inizi degli anni 70, senza chiedere permesso, di Roberto Faenza, no? E si parlava dell'avvento, no? Di questa nuova come dire, guerriglia semiologica, guerriglia television, che in Italia assumeva la configurazione delle nuove attrezzature portatili video con cui poter rivoluzionare, no? L'informazione dal basso rispetto a quello che era il sistema. Tu sai meglio di me che è poi una grande utopia l'informazione dal basso. Naturalmente. Non ha mai prodotto nulla, non sta producendo naturalmente nulla. Naturalmente, però qualche cosa in questo senso, secondo me, oggi invece, proprio grazie ai nuovi strumenti digitali, e parlo di quelli più come dire, low profile, più di bassa qualità, penso ai telefonini, invece sta accadendo, perché se pensiamo a quello che a proposito dell'Iran è accaduto recentemente, quindi a tutta quella mole di immagini, penso naturalmente a Nedà e a quella forma, se vogliamo, invece in quel caso tra virgolette di controinformazione che è stata affidata unicamente ed esclusivamente alle immagini di bassissimo profilo, mosaicate, no? Sgranate digitalmente dei cellulari, beh, questo in qualche modo può far riflettere, così come le immagini non ufficiali della tragedia del Poi guarda, in un'estetica della verità, se vogliamo chiamarla così, ti rendi conto che oggi a maggior senso di realismo un'immagine che si vede male, che si capisce generata da uno strumento amatoriale, perché dice almeno questa è rubata e non fa parte dell'immagine patinata dei grandi regimi, della verità ufficiale che non è mai quella vera, quindi la realtà è nell'irreale, è nell'allontanarsi da una visione realistica. Sì, ma tant'è vero che appunto la differenza fondamentale la troviamo proprio nell'11 settembre tra le immagini ufficiali della tragedia, no? Quelle frontali, prese con i teleobiettivi, pulite, belline, no? Come dire, cinematografiche se vogliamo, e quelle che dal basso ancora recentemente sono arrivati dei video, no? Sono state appunto rubate dalle piccole videocamere. Cominciavano ad andare in rete, mi ricordo, dopo un'ora già cominciavano i filmati amatoriali a vedersi in rete, e mi ricordo che io al tempo seguivo una redazione online. Il mio interesse non era tanto leggere e vedere i commenti da CNN, ma cominciare ad andare a scartabellare i primi filmati che venivano messi in rete. Si capiva che erano cose di persone che ancora erano sporche di polvere mentre le pubblicavano. Esattamente, naturalmente, fermo restando che poi questa estetica del rubato e dello sporco così realistica viene fatta propria dal cinema, quello più, come dire, incredibile, più potremmo dire forse miracolistico, restando anche i termini di Perniola, no? O traumatico, che è poi anche l'attuale cinema americano contemporaneo, che è per esempio Cloverfield, un film che mette in scena l'ennesimo attacco di New York con dei mostri che non a caso decapitano la Statua della Libertà e fanno cadere, come dire, demoliscono i grattacieli con immagini che sembrano rubate da una videocamera. Evidentemente quello è tutto falso. Allora, aspetta un attimo, Chiesa. Professor Perniola, su questo voglio portare su un altro tema lambito, toccato dal suo libro, che possiamo soltanto lambire, quello della sessualità. Si rende conto che anche nella rappresentazione emotiva della sessualità, la sessualità amatoriale, il filmato rubato, la cosa che sembra presa con il telefonino, assume un valore di estrema potenza rispetto al film patinato che nessuno più si va a comprare? Sì, in effetti il mio libro è diviso un po', ogni capitolo è diviso in tre parti, praticamente, cioè, la prima parte è di carattere essenzialmente storico, la seconda si occupa del cambiamento dei costumi sessuali e la terza del cambiamento della cultura. Allora, quello che è molto, anche molto interessante da rilevare, è che il velo islamico negli anni Ottanta nasce essenzialmente, ritorna per così dire di moda, come ritorna in Turchia di moda, come una rivendicazione della dignità delle studentesse islamiche, quindi ha un significato completamente diverso, ha un significato di dignità della donna nei confronti, e poi che poi venga completamente stravolto e che venga usato dai talibani e da molti altri fondamentalismi in un senso di oppressione della donna, questo mostra l'ambiguità anche di tutto quello che riguarda la sessualità presentata negli anni 60 e 70 come una rivoluzione, oggi invece noi la vediamo in tutt'altri termini. Sì, la vediamo come pornografia, come la classifica delle pornostar. O totalmente depotenziata nella certo. Sua riproduzione. Stefano Morigi, ma come si fa allora a non cadere nello scetticismo dell'uomo contemporaneo, che visto che non c'è realtà, visto che non c'è nulla che ci racconta il mondo, si rimane semplici osservatori scettici di quello che ci circonda? Forse dovremmo liberarci una volta per tutte dell'idolo della verità, per avere una capacità, non della verità, ma del suo idolo, per acquisire una capacità più critica che comincia dalla comprensione degli strumenti con cui noi la verità di volta in volta costruiamo. Se quando la smetteremo, ora come nell'Ottocento, immaginarci che la storia debba essere una scienza di matrice positivistica, piuttosto che la realtà si nasconda e si esaurisca nell'autenticità di un'immagine, e forse cominceremo più a comprendere la grammatica degli strumenti con cui noi la realtà e non la verità indaghiamo, allora forse acquisiremo una forma di scetticismo più penetrante, consapevole e distaccato. Ecco, io per dare, seguendo te stesso, una lezione di scetticismo salutare ai nostri ascoltatori, rivelo soltanto sul far della sigla, questa trasmissione era registrata una settimana prima rispetto al momento in cui voi la state ascoltando, quindi non è vero che noi siamo qui al vostro servizio a farvi sentire i nostri pensieri, che il nostro respiro è contemporaneo al vostro respiro, ma siamo da tutt'altra parte, forse nemmeno ci saremo più, quindi riflettete sulla verità. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.